Thank you.

tal distanza, dagli occhi miei di lengua più. Speranza, non mi tradì. Se un solo istante, un solo t'amo, mi dice. Il cor a pien beato, tutti spasimi suoi, perdono.

Peace out. Thank you. Oh! Secreto in tutti i secoli il tuo nome. Come come la sua vita, un po' verbo, e passo.